Ma per me questa vittoria è veramente il coronamento di un sogno di una vita, e quindi che si realizza, e forse ancora io nemmeno riesco a immaginare tutto ciò, ecco. Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Tutti convocati di Carlo Genta. A tutti, ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, e Fabio Cantadori, il capitano, in regia per questo fine settimana che ci ha regalato, ci ha dato, ci ha mostrato una finale di Champions. Già chi mi scrive che dovrei fare sana autocritica per ciò che ho detto su Robben, se io fossi un allenatore andrei esonerato, ma sì, volentieri, se mi pagano lo stipendio. No, ma al di là di questo, Robben è un giocatore straordinario, quanto fragile, quanto antipatico, quanto difficile da gestire. Ha deciso la finale di Champions League perché è un campione, e è un campione che però abbiamo visto troppo poco per eleggere nel gota dei fuoriclasse del momento. Io dico però che in questo weekend, in cui abbiamo visto tante cose, la più grande emozione, forse possiamo parlare di orgasmo sportivo, ma perché no? Orgasmo sportivo perché il ciclismo ci ha già tradito troppe volte, per ricordare che insomma quell'amore che è sempre stato sotto la pelle, tradimenti, non ultimo quello di Luca, delusioni, però non viene meno l'ammirazione di chi sale e soffre su una bicicletta. Una salita è una coltellata nelle gambe e nei polmoni, come diceva Marco Pantani. Vado così forte perché voglio accorciare la mia sofferenza. Ebbene, io direi che l'istantanea del weekend, non so se siete d'accordo, ditemelo, 800 24 0024 è il numero verde. L'emozione del weekend, della finale di Champions League, di un Gran Premio di Monte Carlo che è andato molto male per la Ferrari, che ha incoronato Rosberg molti anni dopo il papà, che insomma che ha vissuto anche di golf, che ha vissuto di Mazzarri ai primi passi dell'allenatore dell'Inter. Oggi ho letto sulla Gazzetta ad esempio le percentuali di chi resta e di chi va, e dico che se così fosse, con il gruppo argentino confermato, Mazzarri non avrà vita semplice. Di un weekend in cui abbiamo sentito anche prima nella sigla De Laurentiis ritirare un premio e non farci mancare nulla per quanto riguarda le battute. Ebbene, io dico che l'istantanea di questo weekend è Vincenzo Nibali, che vince il Giro d'Italia sabato, l'aveva già vinto in realtà, però mette il sigillo al Giro d'Italia, lui siciliano, lui lo squalo, sotto la neve, alzando il pugno sotto quel tempo infernale alle tre cime di Lavaredo. Sentiamolo. È stata veramente un'emozione unica. Oggi per 200 km, per tutta la tappa, è stato un bagno di folla, veramente tutto veramente emozionante e indescrivibile. Anche qui nel finale quanta gente c'è. Diciamo che nella prima parte siamo andati veramente molto tranquilli, abbiamo brindato, festeggiato, quindi, e poi vedevamo anche le persone che ci salutavano dall'autostrada. Questo è stato veramente molto bello, ma veramente tantissima gente oggi sulle strade. Eh sì, questo era Vincenzo Nibali, speriamo di recuperarlo in questo programma, avevamo un appuntamento e speriamo che venga onorato con il signore in rosa, chi scrive la solita classe del signor De Laurentiis, e va bene, l'abbiamo sentito nella sigla. C'è chi ricorda Marco da Alessandria, 349-238-6666, vi ricordo il numero dei messaggi, c'è chi ricorda il triplete al contrario del Benfica, ma poveretti, che hanno perso la Coppa di Portogallo all'ultimo istante confezionando appunto questo triplete al contrario, non so se vale la pena di scomodare la maledizione di Gutmann di cui avevamo parlato la settimana scorsa, però perdere tre volte, perdere tre titoli, il campionato, l'Europa League e ora la Coppa di Portogallo, all'ultimo istante dopo averla già praticamente presa in mano, deve essere qualcosa di sconvolgente. Allora, la cronaca del dopo derby invece dice, l'avete sentita nel giornale radio, 9 arrestati per tentativi di, quantomeno tentativi di sommosse di delinquenza durante i sequestri, sono state trovate diverse armi improprie tra cui rastrelli, e questa non l'avevo davvero mai sentita, 12 lance confezionate artigianalmente, eccetera eccetera. Però tutto sommato la cosa che temevo di più nel weekend, e ve l'ho detto l'altro giorno, erano i disordini che prometteva il derby della capitale, disordini che sono stati limitati e relativi, per quanto possano essere limitate e relative queste cose, e un dopo derby che ha, insomma, che ci ha dato delle dichiarazioni e dei tweet che disegnano perfettamente il clima che c'è alla Roma. Per la Roma io non esito a parlare di fallimento della stagione sportiva, una stagione sportiva iniziata all'insegna di Zeman, all'insegna di acquisti giovani, all'insegna del futuro. Ebbene, vi sfido a dire che quest'anno non sia andata peggio di quanto fosse andata l'anno scorso con il vituperato Luis Enrique. Per la Roma è fallimento, per la Roma si tratta di ricominciare a scrivere una storia, magari ripartendo da questi pesanti scazzi di spogliatoio. Poi vi faccio sentire la voce di Andrea Azzoli che se la prende con Osvaldo, che ieri è uscito facendo gestaccia alla sua panchina eccetera, e il tweet di Osvaldo che risponde: facevi più bella figura, indirizzato ad Andrea Azzoli, se ammettevi di essere un incapace vai a festeggiare con quelli della Lazio. Questo scrive, io penso, ormai super ex attaccante della Roma. Tutti convocati. Dunque, c'è chi scrive: cosa aspetta la Ferrari a sostituire Massa con un pilota che possa prendere qualche punto e possa dare stimoli anche ad Alonso, lo scrive Max da Padova. Beh, ieri, ma non è per tirare in ballo la solita storia che abbiamo così adombrato, no? Che abbiamo messo in luce forse l'altra volta, il Gran Premio che va in diretta su... ma ovviamente scherziamo, amici di Sky, che va in diretta su Sky e non sulla Rai, la Ferrari che fa una brutta figura. Aspettiamo il prossimo Gran Premio in contemporanea per magari vedere un'altra vittoria della rossa. Giuseppe, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Di che parliamo? Derby? Di Messina. Mi ha scritto provincia di Roma, mi scusi, io leggo quello che mi scrivono. No, si preoccupi, no, comunque io volevo parlare di Formula 1. Formula 1, benissimo. Delle dichiarazioni di Alonso, che sono degne del peggior allenatore di Serie A di calcio, che quando perde la sua squadra se la prende con l'arbitro. Ieri, non potendo giustificare la prestazione, direi pessima, della macchina, sì, anche di lui stesso. Anche di Alonso, io raccorso male, sì. Pronto? No, ha ragione, della macchina, ma anche di Alonso, che ieri... Sì, ma dico, ma se l'è presa alla fine delle dichiarazioni post-gara, se l'è presa invece con Perez, che è stato l'unico pilota di ieri che ha dato un po' di spettacolo, tra virgolette, in quel Gran Premio molto monotono, ma sì, che è Monte Carlo. Ma lei sa meglio di me che Monte Carlo è una corsa che è fuori dal tempo e dalla moda, no? A Monte Carlo contano le qualifiche, la Ferrari in qualifica ha il suo tallone d'Achille, ieri è andata molto male, non vince tra l'altro su quel circuito da una montagna di anni, e era andata la stessa maniera, quindi Alonso poteva anche fare a meno di prendersela con Perez e magari come si dice oggi, forse è il momento di fare un po' di autocritica, no? Dopo infatti, che dici? Dico infatti, perché dico, alla fine Perez ha fatto, diciamo, dei sorpassi non molto così azzardati in punti in cui anche la velocità era ridotta al minimo, quindi sì, Alonso ha perso l'occasione per stare zitto. Ha perso, io sono d'accordo con lei, ha perso un'occasione per stare zitto e su quel circuito in particolare l'azzardo fa parte del gioco. A proposito del Gran Premio di Monte Carlo, sentiamo questo. Animali, ma cosa fate lì ingessati con le mandibole? Ma non la vedi che la mia ancora è incagliata con la vostra? Dove l'avete piantata, Mentone? Oh, Agafonaude, che è colpa tua, noi stiamo qua dal 3 agosto. Ma guarda questi proletari, ma cosa fate voi qui a Monte Carlo? Ma voi dovete stare a Pietro Ligure, testa! Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar scerì a Monte Carlo. È stato per colpa nostra, per colpa di una brutta qualifica, eravamo in un gruppo di gente che non ha niente da perdere, però Perez dopo 3 o 4 gare che gli andava bene, oggi almeno si è ritirato. Abbiamo sempre detto che Monaco è una gara unica, dove c'è un setup unico, una strategia molto molto strana, il gruppo che oltre Nino di macchine che avevamo per i 20 primi giri non è normale, in un altro circuito puoi sorpassare, quindi tutte queste condizioni ci hanno, penso, andata male qui, non penso che dobbiamo essere preoccupati per Canada. No, non dimenticare questo azzurro mare. Oh, Sherry, ritorna a Monte Carlo. Bellissimo, veramente incredibile che ho potuto vincere. Non ci credo. È stato un weekend ottimo, è tutto weekend, sempre primo, qualifica primo, poi in gara. Partenza difficile, quasi quasi perso nella partenza, però appena ce l'ho fatta e di là in poi vabbè, sono andato tranquillo con le gomme perché sapevo che bisogna provare a fare una sosta, era fatto per noi, per la nostra macchina, così allora stupendo. Solo tu, Osceri, ritorna a Monte Carlo. Vediamo cosa è successo a Felipe Massa. Intravisto il bloccaggio con quella fumata. Come ieri. Quasi un replay di ieri, sì, sì. Incredibile. Incredibile. Uguale a ieri. Uguale a ieri. Pazzesco, pazzesco. Un romantico passato. C'è chi mi scrive che non ho ancora detto che ha vinto la Coppa Italia dopo 10 minuti. Beh ragazzi, siamo una radio, siamo un settimanale. La Coppa Italia l'ha vinta la Lazio, gol di Ljubic, con polemiche finali da parte di Osvaldo, su cui poi torneremo, però insomma, se volete io il lunedì mi metto a riepilogarvi tutti i risultati della domenica dello sport. A me piace di più commentarli insieme a voi. 800 24 00 24 è il numero verde. Nicola dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno gente, buongiorno. Io volevo aggiungere un pezzo di orgoglio italiano dicendo che Matteo Manassero ha vinto ieri il PGA. Ma allora Nicola, me lo chiedono in tanti, lo sentiamo? Vuole sentirlo? Grazie, la in lingua molto, inglese, la stia, lì, stia lì, stia lì, stia lì, Manassero. Amazing week. I've always felt something really special about this place and this tournament. And you know, everything has came together. This week I managed to play well. I managed to stay in contention after that tough day on Friday, and you know, pull it off with this playoff. So I'm the happiest man in the world right now. Avete sentito, credo avrete anche capito Manassero nel suo inglese molto fluente, molto semplice da comprendere. A Wentworth ha vinto questo PGA Championship. E allora Nicola, aggiungiamo anche lui naturalmente alla galleria dei personaggi del weekend. Assolutamente, assolutamente. Spero che venga intervistato nei prossimi giorni, solo lei lo può fare, lo ha già fatto qualche mese fa e spero lo possa rifare. Esatto. Non c'è nessun problema. Grazie mille gente, magari grazie. Lo facciamo anche al volo, magari anche per parlare del suo Milan, che Assolutamente. Grazie Nicola, mi sembra in mezzo al guado, non si capisce bene, mentre l'Inter ha già preso la sua direzione, no? Nel weekend, con l'inchiostro sul contratto che legherà Mazzarri all'Inter per 2 anni, 3 milioni e mezzo più premi, correggetemi se sbaglio, questo l'ingaggio dell'ex allenatore del Napoli. Il Milan invece non ha ancora deciso qual è il petalo della margherita del prossimo futuro per quanto riguarda l'allenatore. Si parla di un incontro a breve che riavvicinerebbe Allegri alla squadra rossonera. Si tratta di convincere Berlusconi, da un lato Galliani, i giocatori, la curva, queste tre componenti che vorrebbero la riconferma di Allegri, dall'altro chi ci mette i soldi e che invece Allegri non lo vede molto bene, tanto per essere eleganti. Luca Monza, buongiorno. Buongiorno, io vorrei parlare di due cose se mi è consentito. Le è consentito. La ringrazio molto. Allora, una era il Gran Premio di Monte Carlo, esprimo la mia opinione, per me è assurdo che esista ancora, perché più che una gara di velocità mi sembra una gara di incidenti, mi sembra proprio come voler far sopravvivere, d'accordo, per quanto sia mitica, per quanta storia abbia, ma è un po'... Però Luca, no, lei no, ma mi scusi, questo argomento mi sta molto a cuore. Lei non trova che in una Formula 1 che ormai ha perso molto della sua storia, della sua identità, che va a correre in ogni angolo del mondo in cui ci siano dei denari, in mezzo al deserto piuttosto che in luoghi che non hanno niente di leggendario? Io sono d'accordo con lei sul fatto che Monte Carlo è una corsa anacronistica, sono d'accordo, però lo sport vive anche di questo anacronismo, no? Non lo so, io in qualità di ammiratore dei motori, di amatore più che altro dei motori, di dove si possa esprimere la qualità di un pilota, di una macchina, lì mi sembra un po' dove è più una gara di nervi. Sì, lo è. Però ragazzi, ognuno è libero di dire la propria. No, ma lei ha ragione, però lei chiama da Monza. Monza è un pezzo di storia della Formula 1 e quindi io quando vedo quel circuito riesco ancora ad emozionarmi, quando vedo Monte Carlo riesco ancora ad emozionarmi, quando vedo la corsa in Bahrain di emozione ne provo poca, se me lo consente. Anche Monza ha perso molto, perché ma però almeno Monza è storia della velocità, dove una macchina veloce, se è più veloce l'altra vince. Sì, non si capisce neanche quale sia la vera macchina migliore, ma, migliore. Ma così è sempre stato, no? Cioè così era anche 20 anni fa, no? Negli ultimi vent'anni, diciamo, da quando le macchine hanno cominciato a essere dei computer più che delle macchine. Sì, questo sì. Fino agli anni 80, non dimentichiamo Villeneuve nell'81 che fece una gara strepitosa e straordinaria proprio lì a Monte Carlo. Ma io non dimentico neanche i trionfi di Senna e quelli di Schumacher, perché alla fine se lei guarda a Monte Carlo, in questa gara surreale vincono dei grandi campioni. Sarà strano, Io, anche se, ripeto, vedendo la gara di ieri mi sono caduto le braccia, perché al di là che è uscito Massa, al di là che dopo le polemiche che secondo me non merita, anche perché c'è pure il dubbio che sia stato un guasto meccanico, che la Ferrari a mettere su guasti meccanici, io ho come l'impressione che abbia quasi vergogna, poi vero o non vero non lo so, vabbè. Passo al secondo argomento. È una vergogna anche la tifoseria di calcio, e non parlo solo di quella tra i laziali e i romanisti, ma poi tutta Italia, perché al giorno d'oggi ancora la gente non capisca che comportandosi così, e tanto la violenza c'è la condannata di per sé, ma che rimetterci ci sono quei poveri uomini. No, ma sa cos'è peggio, Luca? Lei ha ragione su questo punto, ha ragione senza se e senza mai, senza forse, però la cosa peggiore è che nel weekend io aspettavo di vedere una grande finale di Champions League e in fondo l'ho vista ed ero preoccupatissimo per quello che poteva succedere intorno a Roma-Lazio. Io temevo un nuovo Israele. Ma Nuova Iselle no, però sapevamo tutti, che qualcosa sarebbe successo. Poi i danni sono stati limitati, però già parlare di limitare i danni intorno a una finale di Coppa Italia è sbagliato, è un pensiero sbagliato. Io temevo molto questa serata romana e l'ho detto. Per fortuna non c'è stato un nuovo Aizel, ci sono stati i soliti delinquentelli che sono stati contenuti da un esercito di polizia che, non per fare della demagogia, ma che paghiamo tutti quanti, e così è, e al prossimo derby di Roma saremo qui a raccontarci le stesse cose, purtroppo, perché ieri sera, cioè, secondo me non c'è un epilogo più bello di un derby in finale di Coppa Italia. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo con Carmine da Reggio Calabria, 800 24 00 24, numero verde. Tra l'altro Conte, che fuori onda, ci diceva che non vede l'ora che parta la Formula 1, perché è un grandissimo appassionato. Ci state massacrando con la Formula 1, quindi non vedo l'ora che parta. Tutti convocati sempre e ogni giorno per tutta l'estate, anche già ve lo annuncio, 800 24 00 24, perché di sport, insomma, c'è sempre da dire, sempre da parlare, sempre da magari provare emozioni, come ripeto, per me quella del weekend è stata almeno l'istantanea di Nibali sulle tre cime di Lavaredo. Poi non so come la pensate voi, magari il gol di Robben, che pure è stato meraviglioso, di questo giocatore olandese fortissimo, antipatico e così fragile. Carmine, Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno, grazie per grazie a lei. Essere stato convocato. Senta, io volevo fare un'analisi molto breve insieme a lei del derby di ieri sera. Premesso che io sono calabrese, però tifoso molto ma molto deluso della Roma. Ma non tanto per la sconfitta di ieri sera, perché la Lazio ha meritato di vincere ed è stato giusto così. Ma perché ho capito una cosa. Non la volevo, diciamo, come si dice, una di quelle cose che sai ma non vuoi, la nascondi, però poi alla fine la devi accettare. Io penso che Roma, che è la città più grande d'Italia anche come numero di abitanti, penso che sfiori 5 milioni, e quindi è una metropoli e dovrebbe avere delle squadre che vincono gli scudetti, non dico tutti gli anni, ma quasi. Io penso che le due squadre romane Carmine, sì. Però mi perdoni, il rapporto tra il numero di abitanti e gli scudetti mi sembra vago, perché sì, vabbè, no, io volevo dire che le metropoli europee, Madrid e Londra, cioè le squadre vincono, cioè a differenza dell'Italia che vincono Juventus, Milan e Inter. Ma però quello che voglio dire io è questo: la Roma e la Lazio non vinceranno mai niente, perché hanno una mentalità molto provinciale e soprattutto vivono in una città dove la pressione è fortissima. I tifosi della Roma, come i tifosi della Lazio, sinceramente condizionano molto le scelte della società. Poi basta Carmine, lei ha ragione su questo fatto, cioè nel senso che c'è molto condizionamento, cioè anche questa importanza che assoluta che il derby riveste sia in campionato che, come abbiamo visto ieri sera in Coppa Italia, il derby è questione di vita o di morte. Nei posti dove si vince, il derby è importante sì, ma è una partita, non dico come le altre, ma molto meno sentita rispetto a quanto succede a Roma. A proposito di Roma, io non esito a parlare di fallimento del progetto Roma, perché così è. Basta ricordare, insomma, gli acquisti estivi, l'arrivo di Zeman, l'entusiasmo che c'era, poi la cacciata di Zeman, l'arrivo di Andreazzoli, un risultato fallito dopo l'altro, compreso quello di ieri sera. Ebbene, non vedo la Roma da questo punto di vista molto distante dalla tanto spernacchiata Inter, perché sono stati secondo me i due grandi fallimenti della stagione, e la Lazio ha meritato sportivamente, considerata tutta la stagione, di vincere la Coppa Italia e di alzare quel trofeo nel derby. Questa mattina Fiorello ha fatto giro delle edicole, sentiamo cosa ha detto. Oh, c'è un'aquila che vola qua. Ma queste aquile. Queste aquile che volano. Oh, vola. Sarà così, e la cosa bella per chi vive a Roma e non è né romanista né laziale, è un divertimento unico. Niente Coppa, niente Europa, niente. E Pallotta diceva: non vi preoccupate, l'anno prossimo ci penso io. Questa era Fiorello a proposito di politically correct, come ci piace essere. Antonio Maglie, firma importante del Corriere dello Sport, buongiorno, ciao Antonio. Buongiorno. Insomma, è finita con il trionfo della Lazio, che io dicevo sportivamente meritato per quello che ha fatto in stagione e per quello che Petkovic ha saputo costruire, no? E il fallimento, perché di questo si tratta, del progetto Roma. Sì, io direi soprattutto delle contraddizioni del progetto Roma, nel senso che hanno cominciato, cioè, è difficile riuscire a trovare una società che riesce a sbagliare due allenatori consecutivamente, peraltro partendo, come dire, da zero, nel senso che... Beh, secondo in emergenza però, Antonio. Sì, no, no, due in due anni consecutivi. Ah, no, ti riferisci a Luis Enrique? No, no, mi riferisco a Luis Enrique, ah. Cioè è il segno di una... di poca chiarezza di idee o di un eccesso di confusione di idee, nel senso che ci sono troppe idee che vengono da più persone, da più soggetti, e alla fine producono della confusione. Da questo punto di vista, ecco, Petkovic è proprio l'esempio invece della chiarezza di idee, nel senso che ha perseguito un tipo, ha cercato un modulo nel corso della stagione, lo ha trovato. E, diciamo, e lo ha proposto anche nella finale di Coppa Italia, sì, alla sì. fine vincendo, quindi sono queste le due, cioè, diciamo, secondo me minori mezzi e grande coerenza di Petkovic, che non dimentichiamo ha avuto la sua superstar assente in un momento cruciale del campionato, se no magari qualche punto in più riusciva a farlo. Sì, no, quello è sicuro, cioè lui purtroppo il Petkovic ha avuto un mesetto e mezzo in cui si è ritrovato con troppi impegni tra campionato e coppa e una rosa scarnificata, e soprattutto scarnificata negli uomini migliori. Si è ritrovato contemporaneamente senza Klose, che esatto. è il 50% della squadra, ma esatto. si è ritrovato anche senza Mauri, senza tanti altri uomini importanti, senza Conco per un lungo periodo di tempo. Ieri sera abbiamo visto cosa può rappresentare Conco, e contemporaneamente però è riuscito a restituire al calcio italiano un giocatore come Candreva, che non ha mai giocato come ha giocato quest'anno, soprattutto nella seconda parte di stagione. Sì, certo. Però per fare un discorso antipatico, quanto costa la Roma e quanto costa la Lazio? Voglio dire, al di là della bravura degli allenatori, insomma, c'è una grande differenza. Sì, c'è una grande differenza di costi. Io però devo dire anche una cosa, la Roma il problema della Roma, secondo me, è stato soprattutto un problema di scelte degli allenatori. Scelte degli allenatori che si sono rivelati sbagliate, che hanno determinato grandi errori nelle due campagne acquisti. Le due campagne acquisti hanno prodotto un aumento dei costi notevolissimo. Detto questo, però, devo anche dire che ci sono alcuni giocatori della Roma. La Roma ha creato comunque una rosa di qualità, e soprattutto una rosa molto molto giovane, che può avere futuro, a patto che ora riescano a fare la scelta giusta dell'allenatore. Ecco, intanto prima di aprire questo capitolo, Antonio, è finita a pesci in faccia in maniera molto poco elegante tra Andrea Zoli e Osvaldo. Andrea Zoli stamattina ha detto queste cose. Osvaldo non è nuovo a queste scene sotto le telecamere, poi magari nel privato ha comportamenti un po' piagnucolosi, è un problema suo, non è un problema mio. Mentre Prandelli dice che Osvaldo, beh, voglio capire che tipo è, non so bene se decido di convocarlo nel futuro, Osvaldo risponde a queste parole di questa mattina di Andrea Azzoli su Twitter: facevi più bella figura se ammettevi di essere un incapace, vai a festeggiare con quelli della Lazio. Mi sembra un pessimo epilogo, no? È terribile come epilogo. Purtroppo devo dire che Osvaldo non è, oggettivamente non è nuovo a determinate cose. Secondo me poi i calciatori si giudicano molto dall'almanacco Panini. Uno prende l'almanacco Panini e vede quante società ha attraversato un giocatore. Se ne ha attraversate tante, un motivo ci sarà. Se è bravo, poi il motivo non può essere tecnico, e dato che Osvaldo è bravo, fate voi i vostri conti. Questo vogliamo dire, sì. Ascolta Antonio, per chiudere, tu parlavi di due scelte sbagliate della Roma al capitolo allenatore Luis Enrique l'anno scorso e quest'anno peggio ancora, secondo me. Il futuro qual è? Adesso Allegri si riavvicina al Milan, si è parlato di Mazzarri. Secondo te, o meglio, per quanto ne sai, qual è il futuro della Roma sulla panchina? Ma io a me risultava che loro avessero puntato molto, molto pesantemente su Allegri. Su Allegri. Io mi auguro che loro abbiano, ma so che avevano anche preso in considerazione altre soluzioni tipo Pioli. Io mi auguro che loro abbiano un'alternativa oggettivamente, perché non possono, cioè sarebbe la terza volta, terzo anno consecutivo in cui restano in qualche maniera prigionieri di valutazioni non esaltanti sul mercato degli allenatori, e sono poi costretti ad inseguire un'alternativa così lì per lì. Ora Luis Enrique è stata una scelta pensata, valutata. Zeman è arrivato, cioè all'inizio loro avevano puntato su Montella. Sì, certo. Ma gliene incolse a non puntare su Montella. Certo. Perché Montella ha dimostrato, insomma, la prima idea era quella giusta. Ecco, esatto, e infatti è stata scartata. Grazie Antonio, buon lavoro. Prego, arrivederci. Grazie ad Antonio Magni, inviato del Corriere dello Sport, 800 24 00 24, il numero verde. Io vi aspetto qui, poi dico una cosa dopo il traffico, dico una cosa su Cavendish che Stefano, un ascoltatore, mi ricorda. A dopo. Tutti convocati. Ragazzi, non fate i capricciosi di basket, sapete che io parlo sempre volentieri e molto. Siamo nel pieno della stagione del basket, se si parla di Roma e Lazio, no comment, scrive Andrea. Di basket parleremo domani, dopodomani, il giorno dopo ancora. I playoff sono lunghi, sono belli anche, perché io non potevo credere a quanto ho visto venerdì sera, cioè Roma che straperde la partita con una Cantù per tre quarti meravigliosa, addirittura perfetta, e poi che si fa rimontare da Roma, che dentro ha indubbiamente qualcosa, che dentro ha un cuore che batte, e ci regala una serie all'insegna dell'incertezza. Mi sembra un po' meno incerta la serie che si gioca tra Varese e Siena, e continuo a considerare Siena la favorita numero uno per lo scudetto. Poi ragazzi, io vi dico la verità, vorrei qualcosa di nuovo e di diverso, con tutto il bene che posso volere e l'ammirazione che ho per Siena, però vorrei vedere qualcosa di diverso alla fine della stagione, chissà se ce la facciamo. Prima di Renzo da Imperia, 800 24 00 24, ho detto che c'è un ascoltatore che mi ricorda di dire una cosa che penso su Cavendish. Allora, io ho un'ammirazione sconfinata per i velocisti che vincono l'ultima tappa di un grande giro, perché è facile vincere le prime quando la benzina è tanta, quando si sta bene, quando le montagne sono ancora lontane, però io ho un debole per i corridori come Mark Cavendish che vincono l'ultima tappa di un grande giro, perché per arrivare a quell'ultimo striscione ci vuole un sacco di fatica, ci vogliono due palle così, ci vuole un sacco di sofferenza. E allora io dico che per un velocista l'ultimo striscione di una grande corsa a tappe vale quanto una maglia rosa o gialla o amarilla come quella della Vuelta, e pertanto giù il cappello davanti a Mark Cavendish. 800 24 00 24, numero verde. Renzo Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie Genta per la convocazione. Grazie a lei. Anch'io vorrei allacciarmi un attimo al Giro d'Italia, no? Perché è disegnato molto bene, molto meglio rispetto al Tour de France, secondo me, avvincente, la canzone di Cremonini, per quanto molto bella anch'essa, non si addiceva molto alle condizioni avverse meteorologiche. E allora la mia idea, che giro a lei, così lei sì, con le sue conoscenze può girarla a chi di dovere, perché non si posticipa di nuovo il Giro d'Italia di 20 giorni, come faceva fino a 2-3 anni fa? Il Giro d'Italia iniziava il 20 maggio e finiva a metà giugno, al 10 Beh, no, giugno. È tanto potrebbe tempo. Essere importante correre 15 giorni dopo per sì, evitare queste nevicate, no, che poi annullano queste tappe così belle, beh, così per la verità, mi perdoni, resti lì, però oppure, per la verità è molti ancora una cosa. Sì, no, no, ma poi dice tutto quello che vuole, ma farlo a settembre, correrlo a settembre al posto poi della Vuelta, si anticipa la Vuelta in Spagna, ovviamente anche a maggio, essendo più a sud le condizioni meteorologiche sono migliori, e il Giro d'Italia si corre a settembre quando notoriamente non nevica, perché più a Natale. Ma dipende, poi bisogna pensare ai calendari internazionali, a quello che pensano gli organizzatori della Vuelta, eccetera eccetera, però sinceramente è molti anni che il Giro d'Italia, almeno a memoria mia, si chiude normalmente la prima domenica di giugno. Quest'anno è stato anticipato per ragioni di calendario di una settimana, però io vi sfido a ricordare un mese di maggio così dannato dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Insomma, è capitato di ricordate un episodio lontano di Epstein americano congelato sul Gavia? È successo anche questo, ogni tanto succede, ma un mese di maggio così freddo, così piovoso non si ricorda da molti anni, quindi non lo so, le date del Giro d'Italia storicamente sono queste, almeno nell'ultimo periodo. Poi comunque alla fine è stato un Giro d'Italia, secondo me è bello, secondo me è avvincente. La differenza che lei ricorda rispetto al Tour de France, insomma, come percorsi, come montagne, siamo tutti d'accordo, ed è quasi un luogo comune il fatto che il Giro d'Italia sia più duro dal punto di vista delle salite, dal punto di vista dell'intensità del percorso, però al Tour de France ogni tappa si corre alla morte ed è questo che fa la differenza rispetto al Giro d'Italia. Non sono le salite, ma l'intensità e le medie e l'agonismo con cui si combatte ogni singolo metro di ogni singola tappa. Flavio Udine, buongiorno. Buongiorno, volevo farlo ritornare al discorso della Roma di poco fa per fare un paragone con la mia squadra qua dell'Udinese, che riesce a valorizzare i giovani e a riproporli senza pressioni, che in un ambiente più incontaminato come quello friulano qui. Sì. I dirigenti della Roma potevano comprendere che la loro situazione è un po' diversa, per fare un paragone così, o pensano che magari i loro giovani possono essere rivalutati e dare dei risultati subito come nella piazza? Beh, Flavio, lei sa perfettamente che giocare a Roma e giocare a Udine è una cosa differente, no? A Udine hai una società che ti lancia, ti protegge, ti valorizza, però, il cui interesse è quello di valorizzarti, no? Esattamente, anche se secondo me i giovani che vengono valorizzati qui a Udine non sempre poi sono quei grandi giocatori. Beh, che certo, poi questo fa parte del gioco. Ci sono dispersi parecchi di loro in realtà più importanti. Questo nella Roma diventa ancora più difficile, perché emerge la Roma. Ma non che a Milano sia più semplice, eh? Sì, no, ma io però da dirigente della Roma, se faccio una politica di questo genere, devo sapere in che piazza vado a operare. Sì, sì, non su è questo. Un'accusa, ma è una constatazione, è chiara come la luce del sole. Cioè, a Udine è evidente che l'ambiente, la politica societaria, la struttura, l'idea di fondo è quella di prendere giovani con una grande attività di scouting e di lanciarli. Poi alcuni sono bravissimi, diventano dei campioni, vengono valorizzati e venduti a peso d'oro, altri invece fanno un percorso diverso, però è chiaro come giocare a Roma o a Milano sia qualcosa di diverso rispetto a giocare a Udine. Questa è nella logica dei fatti. Davide Milano. Davide? Ci sei? Pronto, prova. Ci siamo? Sì, ciao. Ciao. Grazie per la convocazione. Grazie a te. Solo due parole. Sì. A Roma manca umiltà. Non si può vincere con i De Rossi, che non è più capitan futuro, ma è capitan promessa. Ma perché? Secondo... E Zeman questo l'aveva capito. Ma no, questo esageri. Perché De Rossi, secondo me... Ma all'età che ha e per quello che ha dimostrato rimane uno straordinario giocatore. No. Mi spiace, lo so benissimo perché ne hai sempre parlato bene, ma io non la vedo così. E sono del parere che Roma, se dovesse un giorno, penso il prossimo anno, comunque chiudere con Totti, cedere i De Rossi, non coltivare più ragazzi che arrivano dall'interno della società, dove comunque sentono troppo la pressione di Roma, perché sono anche tifosi, e allora Roma veramente avrà una svolta, proprio dal punto di vista come società. Beh, ma è un ambiente molto particolare in cui la pressione si sente da una parte e dall'altra. Roma e Lazio mi fanno ciao con la manina, devo chiudere, ci sentiamo domani alle 2, 800 24 00 24, segnatevi bene il numero perché domani vi aspetto. Franco Piattarino, autore di questo programma, Fabio Cantatori in regia, ciao, sì, va bene, meglio ciao. Soli che mal accompagnati, non è questo qui, grazie al sole. Però voglio dire, non è riferito a me, no, riferito a tutti i gufi che girano, comunque adesso al di là di tutto quanto, quali gufi, Presidente? Ma no, questi gufi, visto che noi abbiamo l'Aquila, noi combattiamo i gufi, lo sai come funziona.